Monte Citorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno questa volta da Monte Citorio e siamo andati non nell'ufficio di presidenza della Camera, ma nel nuovo gruppo, nella sede del nuovo gruppo di Monte Citorio del Movimento 5 Stelle per incontrare però il vicepresidente della Camera. Allora, quanti voti ha ricevuto Luigi Di Maio? Intanto congratulazione per la nomina. Quanti voti? Oltre 170 voti, è stata la terza elezione come vicepresidente della Camera, sono il terzo eletto come vicepresidente della Camera dei Deputati, deteniamo anche questo record anagrafico per quello che può contare, cioè del più giovane vicepresidente della storia della Camera dei Deputati. È stata una candidatura che ovviamente è partita dal gruppo, eravamo in due che ci siamo candidati a questa carica, il gruppo parlamentare ha votato il candidato alla vicepresidenza che doveva presentarsi quindi e doveva essere votato dal gruppo come vicepresidente della Camera e io sono risultato quello più votato e in ragione di questo abbiamo poi presentato e votato me alla carica di vicepresidente, che venerdì sera sono stato proclamato come eletto vicepresidente dalla presidente Boldrini in seduta della Camera dei Deputati. Quanti anni ha? 26 anni a luglio 27. Quindi proprio giovanissimo. Da dove viene? Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Quindi un posto abbastanza importante anche per la disoccupazione. Lei perché a un certo punto si è candidato con il Movimento 5 Stelle? Io personalmente ho sempre nella mia vita, anche prima che esistessero i meetup, il Movimento 5 Stelle, ho sempre seguito esperienze di partecipazione. Soprattutto quando poi conobbi la prima iniziativa lanciata dal blog di Beppe Grillo, che era appunto Parlamento pulito, quindi chiedere che i condannati non fossero in Parlamento, ripristino delle preferenze e così via, aderì a quell'iniziativa raccogliendo le firme, che è prima di tutto un'esperienza umana, impari a fidarti delle persone perché sai che quelle persone stanno facendo partecipazione in maniera disinteressata. Di quanto vogliamo tagliare i deputati e di quanto i senatori? Da 630 a quanto e da 315 a quanto? Tagliare i deputati e i senatori significa fare una riforma costituzionale, cioè modificare la Costituzione. Quindi abbiamo bisogno di una larga intesa, che spero ci sia perché il Paese ce lo chiede, e quindi almeno la riduzione del 50%. A volte si è scherzato negli anni dicendo che se la Cina avesse la stessa proporzione di parlamentari che abbiamo noi per numero di abitanti, servirebbe lo stadio del Maracanã per ospitarli tutti. Ed è vero, e non è neanche vero che quando si aumenta il numero di parlamentari si aumenta la rappresentatività, cioè non è vero questo, perché noi dobbiamo fare in modo che ci sia un'efficienza nelle istituzioni e la rappresentatività è garantita dall'efficienza delle istituzioni. Intanto nell'ufficio di presidenza si comincia a parlare di tagli veri, che lì è più facile perché è una legge ordinaria, quindi insomma si potrebbe già mettere un po' di carne al fuoco. Che cosa avete chiesto alla Boldrini e qual è poi il suo rapporto con questa presidente che viene anche lei da fuori il Parlamento? Ieri nella prima riunione dell'ufficio di presidenza insieme al presidente Boldrini, ai questori, ai segretari e agli altri vicepresidenti, noi abbiamo ribadito che se le intenzioni dell'ufficio di presidenza e della presidenza vanno nella direzione della riduzione del costo sia dell'intera macchina della Camera dei Deputati, quindi intera macchina amministrativa della Camera dei Deputati e soprattutto nella riduzione delle indennità di carica, delle indennità personali parlamentari, la rendicontazione delle diarie e dei rimborsi, quindi eliminando il forfettario, se queste sono le intenzioni, l'ufficio di presidenza avrà tutta la disponibilità del Movimento 5 Stelle, perché abbiamo più volte dimostrato che se le istituzioni vanno in questa direzione noi ci siamo dentro e sosteniamo questa linea. Io spero che si possa mettere in moto anche un meccanismo virtuoso secondo il quale Camera e Senato riescano a diventare sempre più virtuosi, ad ottimizzare le loro spese e quindi ridurre i costi che poi gravano sulla spesa pubblica. Nello specifico era stata avanzata l'idea dalla Presidente Boldrini di destinare una parte di questi fondi, i fondi ricavati, quindi gli utili da questa spending review della Camera dei Deputati, a ricerca e istruzione. È una buona idea, però si può anche discutere insieme ai cittadini tutti se in questo momento si possono anche individuare altre forme di finanziamento per altri settori della nostra società. Penso al microcredito, alla piccola e media impresa, che può essere quindi un'occasione per immettere liquidità nel meccanismo economico del nostro paese, che si regge sulla piccola e media impresa, quindi su questo molta sintonia per ora, però vediamo i fatti, insomma. C'è un rapporto della Confcommercio, ci sono 4 milioni di poveri in Italia. Allora, come si fa a far ripartire l'economia? Condivide l'allarme di Confindustria, la richiesta anche di Confindustria, poi appoggiata dal governo, di restituire i debiti delle pubbliche amministrazioni? Allora, noi siamo in un momento in cui, e io sono di Pomigliano d'Arco, quindi nella mia città si è subito più di tutti questo concetto di crescita che in qualche modo poi si è arrestato, perché si pensava che si dovesse continuare a produrre una serie di prodotti anche se non ci si domandava fino a quando ci servivano, nello specifico l'automobile, che in questo momento è in crisi quasi in tutto il mondo come produzione, a parte i mercati emergenti che per la prima volta se ne stanno dotando. Quindi qualsiasi forma di crescita in questo momento deve passare prima di tutto per la pubblica amministrazione che paga le imprese, questo deve essere chiaro, e per questo dobbiamo recuperare fondi attraverso appunto spending review degli enti pubblici, rivedere le province, abolire le province, questo è tutto quello che portiamo avanti da anni, no? Tagli ai costi, ma prima ancora della RAI c'è ben altro da tagliare, poi rivedere anche gli sprechi ovunque, non tagli lineari, però vedere dove ridurre, quello che fanno per esempio i nostri sindaci quando governano le città, invece di fare tagli lineari vanno a vedere dove ridurre i costi e prendere questo ammontare di soldi che deriva appunto dai tagli degli sprechi, come le mega pensioni ad esempio, e darli prima di tutto sotto forma di credito alle aziende che in questo momento hanno bisogno di un po' di respiro, che sono anche magari le stesse aziende che non ricevono neanche i soldi, quindi i fondi dagli enti pubblici, quindi il saldo dagli enti pubblici, e sono costretti a fare un ulteriore prestito che li indebita, e quindi alla fine quando avranno i fondi dall'ente pubblico salderanno al massimo gli interessi sul debito che hanno contratto con la banca per colmarlo. E poi mettere in moto un nuovo meccanismo economico che passi per un nuovo modello di economia che ad esempio può essere utilizzato nell'ambito, stiamo parlando ad esempio della green economy, ed è semplicemente una nuova occasione di produttività sostenibile nel nostro paese. Ringraziamo allora il neoeletto vicepresidente della Camera, ancora congratulazioni, del Movimento 5 Stelle, primo ospite, siamo molto contenti, per Montecitorio e dintorni, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.